Italia in controluce. Buona mattina da Daniele Biacchesi, questa è Radio 24, il Sole 24 Ore, state ascoltando Italia in controluce, la prima delle due edizioni quotidiane che raccontano l'Italia. Oggi ospitiamo un grande attore che ha reso famoso il personaggio del commissario Montalbano inventato dalla penna di Andrea Camilleri. Daniela Binello ha incontrato Luca Zingaretti, che alterna televisione e cinema e soprattutto in questi giorni teatro, dove è impegnato nella tournée, nella lunga tournée della Sirena di Tomasi di Lampedusa. La storia è la storia di un'amicizia, quella che nasce tra due personaggi straordinariamente lontani. 1938 a Torino, uno è un giovane giornalista della Stampa, originario della Sicilia, che è appena stato lasciato da due ragazze con cui tratteneva contemporaneamente una relazione, e allora un po' affaticato da queste vicende amorose decide di isolarsi un po' dalla mondanità e passa le sue serate in un fumoso bar torinese a Legge, dove incontra uno strano personaggio da un punto di vista fisico, una persona di età molto avanzata, con un cappotto con un collo di astrakhan spelacchiato, ha delle mani ossute, fuma parecchio, sputa parecchio, e quindi già questa visione così d'amblè lo affascina, se non che cominciano a parlare, perché si scopre che anche questo personaggio è un professore di letteratura greca, un grande personaggio, e nasce questa sorta di rapporto, un rapporto che sembra destinato a morire dopo pochi attimi, perché non c'è niente di più diverso di questi due uomini. Quindi a un certo punto invece tra i due nasce una sincera e affettuosa amicizia, e poi c'è questa epifania finale, questo racconto finale del professore che un po' spiega tutto. Praticamente il professore incontra una donna che ha delle caratteristiche particolari per affascinarlo così. Il professore incontra una sirena. Il professore racconta di questo incontro che ha avuto in gioventù mentre diciottenne cercava di prepararsi per il durissimo esame per diventare professore di letteratura greca, e mentre è seminudo su una barca, a un certo punto sulla barca sale una sirena, e con questa sirena vivrà una straordinaria stagione d'amore, breve, ahimè, la brevità di un'estate, che però segnerà tutta la sua vita. Per cui c'è una sirena nell'immaginario collettivo degli uomini. Ma non lo so se c'è una sirena, io da questo punto di vista qua sono molto più terreno, credo che ci sia la voglia di trovare la donna giusta in tutti gli uomini, così come nelle donne di trovare l'uomo giusto. La cosa che sicuramente affascina di questa storia è che la letteratura, la parola, la scrittura di Tomasi Lampedusa è talmente potente che a un certo punto si trasporta in un mondo immaginario, immaginifico, senza però che lo spettatore riesca a mettere in atto le difese intellettuali che di solito uno fa scattare quando appunto da un racconto normale si va in un racconto fantastico, e nemmeno per un attimo si dubita che questa sirena sia esistita, nemmeno per un attimo si dubita delle parole del professore quando appunto racconta la sua avventura. Quindi c'è un po' un'atmosfera da fiaba. Sì, direi che c'è proprio un'atmosfera da fiaba, perché si è un po' cullati da questa storia e dalla potenza con cui Tomasi Lampedusa la racconta. E come ogni lunedì a quest'ora c'è Piera Ceci con Scuola in Controluce. Scuola in Controluce. Maestra, la sicurezza. No. L'avevo detto senza la O. Io l'avevo detto. Vabbè, va benissimo. Bravo. Guarda. Continua il grande amore fra scuola e grande e piccolo schermo. Al cinema in questi giorni il primo incarico di Giorgia Cecere racconta la storia di una ragazza che nel 1953 viene spedita in uno sperduto paesino pugliese a fare da maestra in una scuola che si fa davvero fatica a definire tale. E la prossima settimana in TV su Canale 5 la terza serie dei liceali. New entry nel cast e fra i banchi Giulia Elettra Gorietti, che così spiega il successo dei film o fiction sulla scuola. Perché rispecchiano comunque la realtà e soprattutto la parte più divertente dell'aspetto scolastico, no? Della scuola. Nel senso, la scuola non è solo studio, per carità anche studio, però tutto ciò che c'è di contorno e che quindi ti invoglia ad andare la mattina a scuola alle 8, ovvero le amicizie, qualche scherzo che si può fare ai professori o tante altre cose, un amore, eccetera, eccetera.